chimico. Cosetto? Non stai uscendo? Niente da fare. No, no. Niente radio, portate a basta. Devo provarla allora, Gian Mario. No, adesso sei uscito. Sì, perché ho cambiato microfono. Stavo provando l'MG5 in questa radio qua. Ah, non stai uscendo comunque con quell'altro, va. Sì, devo provare il cavetto allora. Prova, sono in via merda. Ok. Sorry. Attenzione signor Bacchiglio! Yeah, metti calori! Oh yeah! Caccia, venne! Attenzione signor Bacchiglio! Pronto! Bello! Buonasera! Buonasera anche a me! Come va? Ehi, rompe dall'altro! Va bene! Da come mi ascolti? Abbastanza bene! Radio 5 perfetta, 9:30 e qualcosa di segnale. Perfetto, me lo vedo. Ma io te lo compro il brevetto, ma cosa me ne voto? Dicevo, provando a farmi... Ho provato il cavetto che avevo fatto per quella radio tua. Dopo, ecco, non esce di radio con il microfono da tavolo di l'MP5. Ok, sto cercando di metterlo a posto. Come andava Giovincio? Sapeva da 5 e non so quindi siano andati, forse sono andati a casa Giulia. Non sei uscito signor Bacchi? Sì, perché ero lontano. Con signor Ginco ero. Sei uscito con signor Ginco e poi non so quindi siano andati, ci sono andati a casa di Ginco, boh? Io pensavo che venivano qui. De Gozo, de Durno è. Marino. Mi sa che il signor Marino sarà impegnato. No, mi si arriva in 30 e più a me, non va arrivare a Edo. Ti sei lasciato debito di segnali. Perché stai usando l'899 alla Mantova. Ah, per quello è. Ah, a chi tu arrivi fino a 960 ti arrivi. Adesso sei sceso a 930 e più. Attento, Marino. Si è perso il cammino, si è perso. Signor Bacchi, non lo saccio. Non saccio nulla. Io ero all'acqua. Eh? Io ero all'acqua, non so niente. Siamo veramente. Ma dalla parte tua stasera ha piovuto? Nulla, una goccia. E allora prende da parte di Santa Teresa, Farao e Olbia. Andiamo e andiamo. Con la Grand Prix? Sì, fai bene. Oggi va un'antenna Burinchivi. Vivo. si arriva da tutte le parti, sì. No, me la metto in macchina e riporto solo io. Ah, signor Bacchi. Presto, se non arrivo tutte le parti, me la metto in macchina e la porto io a lei. Che bella, ci siamo infusa. È sicuro di sì. Andiamo, ma andiamo, dai, dai, vabbè, ci ha passato il cuscino. Sicuramente me la foto, eh. Ho visto, è bella come Grand Prix. L'architetto l'ha disegnata così. Io ce l'ho la Grand Prix. Ce l'ho da tanti anni, è la prima antenna che ho giubilato. Ma cosa c'è? La City mi ha sentato qua. Cosa c'è? Il modello con questa campiella grigio. Sì, è grigio l'affare, ed è lunga, mi pare roba di 2,5 metri, lo stilo di mezzo. Signor, buonasera. Buonasera anche a lì, signor Fra. 2,75 infatti dovrebbe essere. E più i cosi da 1,5 metri mi pare. 2,65. Ma lei cos'è? L'ha fatto a 2,65. Deve essere 5,30 metri. No, la Grand Play, questa Grand Play che ho io, che è 2,75 metri mi pare, molto meno se ne bacchissimo. E gli stilo sono 1,5 metri mi pare. Ma c'è la Grand Prix, c'hai tu? E lui, ce l'ho giù in magazzino. Ah, sta venendo a me, me la piazza in campagna. Poi, stavo organizzando lì su. Mannaggia, la pecora, stavo cercando per mettere in campagna, adesso quella bungarandina. Quella non la do a nessuno perché ce l'ho da quando ho iniziato, ce l'ho. L'ho tolta quando avevo messo la mantova 1. Io la stavo cercando ma non c'è nessun più in commercio. Ma infatti non c'è nessun più in commercio di quelle. E quella ce l'ho, ma ha chiesto un sacco di gente, me l'ha chiesta. Bell'antenna, Grand Prix. Cioè, tre stilo e... è questo di mezzo lungo 2 metri e più. Sì, io già la conosco, ce l'ho, io c'ho il mozzo della Grand Prix. Allora che non ti ravvalo? Beh, cosa posso, non mi ero tenuta nel mozzo, non io voglio, io la volevo intera. Tu lasci l'opinione invece. Hai visto? Se ma ti manca la ruda a te, hai compreso? Hai capito, Fra? Ecco, non la do a nessuno. No, vabbè, io ti ho chiesto se la stavi vendendo, io non è che la volevo gratis, sì, capito? E poi non la devi dare, fai bene a tenertela, capito? Non è che... No, perché quello lì è un ricordo che ho, mi è rimasto solo lì su del ricordo. E lo sai, tanti ricordi da io, tanto ti mi ha. Ma io non te la rampo, ce la dovrò usare che qualche giorno... Non so se mi prenderò un pezzo di terreno, una campagna o una villetta al mare, ma un gioco, un domani. Vabbè, fai bene, insomma. Tieni racconto allora, non me lo dare. Riprendi i bacchi, sì. Io, però, perché poco fa, come mi ascolti? Ti ascolto bene, 9-5, 5-9, sì, bacchi, ti ascolto benissimo. Quindi non sto andando adesso, bravo. Ah, buono, lo so, sicuramente ho qualche dipolo. No, più del dipolo, una Grand Prix. Già va bene, dai. Vi stavo dicendo, io ho giù una... come si chiama? Quella bomber che adesso la tolgo e domani, se tutto va bene, ci piazza la Master in su. Una bella giornata che non piove. Che mi sia facciato Manuela, come qua? Manuela, tu vieni, avanti. Sì, buonasera a tutti, dai. Non so se mi sentite. Sto usando il portatile adesso, dai, volo anche il mio prossimo gomma. Io mi avevo una cosa a te. Che abito hai, Manuela? Sì, mi piace sorpreso. Riprendi, Tore? Riprendo, sì. Se ce l'hai bussato a... Marino, hanno bisogno di più pizzi. No, dovevamo fare delle cose, sbrigare delle cose urgenti. Ha già compreso, andava bene. Tanto è una vita in gomma, io sono qui per attendere. Sì, e me fa. Ciao Manuel, buonasera. Ho detto a partire, sto usando. Latte Melci Goma. Latte Melci Goma. E te ce l'hai macchina? Io se no è sarebbe su lì 70-80 centimetri di antenna, un attimino piccolo, rapido, va magnifica. Ho capito, della mini Gran Prix è la già va bene, invece che sei il dattore, cos'è la Gran Prix, quella grande? Sì, la Gran Prix, quella grande, quelle che facevano una volta. Non fanno più quelle, ragazzi. Io c'ho il mosso, mi si può costruire a volendo. Si può costruire, sì, i gavi rubetti che bisogna dentro e ci metti... e ci metti il lungherone e le tre cose in alluminio. È lungherone, lasciami pensare. Eh sì, che si può fare? Uno dentro l'altro, come ce l'ho io. So che da me non ne esci più, che ormai già fatto l'ocido dentro e non ne esci. Ma devi fare la carica però. No, è già pronta a piazzare e buf. No, io c'ho solamente il mostro, solo la base e basta, l'antenna non ci sono più. E così in alluminio tu non c'hai? Io c'ho il mostro in alluminio, dove ci vanno attaccati tutti i radiali. Però non c'ho, manca tutti i radiali, manca lo stile, manca tutto. Basta comprarsi i radiali, alluminio, come fai? I radiali non c'è. Poi fate scegliere l'alluminio pieno oppure... Fammi le misure, ecco, se ti viene bene, e con quella basetta che ho le costruisco. Prendo le misure e te la costruisci. Ma pure devo fare sempre la carica. No, il mostro è già caricato quello, dentro la, c'è dentro la carica. Dentro dove? Dentro nel mostro. Si usi. Eia. Poi ti dico quanto è lunga l'antenna, che perché è già pronta a piazzare la mia. Ascolta, io ho il mostro, però mancano i radiali, capito? Siccome c'è i radiali in vetro resina. Quelli che vanno attaccati sotto. Però il centrale è in alluminio. Lo so, infatti la voglio costruire io, no? Quello lì ti do io, il centrale più gli altri tre dei radiali. Allora sì, perché io c'ho il mostro, me la costruisco, capito? Io ho le misure, se quanto vuole lungo tutto insieme, e le infili in mezzo, arrivare sino al punto giusto. E poi la provi a vedere. Ho capito, ma faccio vedere il mostro di su. Magari me lo pongo in macchina, perché io c'ho il mostro. Ascoltami bene, però dal centrale manca tutto il centrale e mancano tutti i radiali, capito? Ci sono le viti e tutto. Ma i radiali siano un metro e venti o un metro e mezzo, una cosa del genere. Ah già, le misuro quanto è lunga lo stilo di mezzo. Al limite mi fa sapere dopo, ora. Alluminio ce l'ho, capito? Infatti è così. Io ti dico quanto è lungo, perché l'avevo tarata così io, zero di stazionale ci aveva, l'avevo tarata così io. Ho capito. No, funzionano bene come antenne quelli. Sì, ma lo so, sai, perché ci ho messo la mantova uno io, anche di sul bavo. Sì, quella fame di TVI. Quella sono in campagna a quel momento, non metterla in città per carità. No, infatti, me l'ha chiesta parecchia gente, me l'ha chiesta, non l'ho data per quello. Perché è turbata. Ci ho messo in magazzino e l'ho lasciata lì. è lì, la dovrò usare in qualche posto. Per carità, una volta ce l'avevo io la ghiacciata, mamma mia, Roberto, in guai che fanno. Infatti io la giocavo da subito, la giocavo da un poco, poi si è uscita e non sono riuscito più a cavarmela. Ma è quindi tutta piazzata? No, gli stilo sono fuori, sono staccati, c'è lo stilo lungo di mezzo piazzato, tu. Ho capito, io ho anche la mano da 5, solo che non la piazza perché è troppo pesante. Chi sei pesante, sì. Aspetta, facciamo entrare gli altri. Avanti, signor Bacchi. Ma Franco, il mosso che hai, cos'è, filettato e l'infra? Ehi, Abacchi, sono filettati e quelli di sotto. Dovrebbe essere filettato, dovrebbe essere la filettatura dei radiali. Sì, sono a filettatura, sono. I radiali che ho sono a filettatura. E infatti. E bisogna vedere se il moto che c'è Franco è filettato. Franco? Sì? Ma il moto che c'è tu sotto, sono filettati per avvitare il radiale? Sì, filettati, ci sono anche i bulloni. I filettati mi pare che sia passo 8. Sì, è così. Sì, è così. 5, ancora Vigi. Sì, sto ascoltando il vostro discorso, dai, non ci sono problemi. Parlate di affrettamento e mallevari. Se si imparano che cosa, Ami? Sì, di sicuro. Io la volevo fare da uno scaldabagno che c'ho il vecchio. Ma non me la spiegare, piazzate lo scaldabagno. Sì. E poi ne vedeva il burro, Trento. Cosa ti faccio d'antenna? Che pensi non funzioni? Perché se colleghi l'antenna alla televisione non funziona lo stesso il barattino. Sì? In direttiva. Sì, in direttiva, una volta l'ho attaccato qua per una prova. Ma che programma hai visto? No, tutte le televisioni di seguita. E fai così. Vero, signor Bacchi? Sicuro, mi così. È proprio così, hai sciabinato tutto, però esce, trasmette. Ma voi c'è le macchine, tu cosa c'hai da mettere di stazione fissa? Stazione fissa, l'antenna. Sì. 35. Ce l'ho anche io. E quindi tu non hai Grand Prix a vendere, quelle piccole? Non ne ho una per me, No, io pure ce l'ho la macchina 5, ma no. Non la voglio piazzare perché è troppo pesante da qui. Una cosa pesante, io ne ascendo da solo, la moto su, tutto da solo faccio, è leggerissima. Ma io va giù, 8 metri di tubo da un pollice, capito, a portare su, più l'antenna. Ma io il tubo è da un pollice, però è telescopico. Scendo il primo stadio, sono 2,50 metri, stringo i bolloni, poi faccio scendere l'altro e poi portarlo su al contrario. Ho capito, ma l'ha pagato il tubo? Il tubo di zingato. Sì, ho capito, un tubo telescopico, quanti metri è? E quando arrivo in cima arrivo a 9 metri. Buono, dai. Prima ce l'avevo 15 metri. Quando c'era la Grand Prix in sopra c'erano 15 metri di palo. Sì, la beffa. Ancorato in 3 volte, in cima, metà e giù. Sì, ho capito, con tutti i tiranti che fanno. Non ce ne sono tiranti, adesso lo manco, la porto su e lascio stare senza tiranti. All'acqua di rose, va dove vuole. E te l'ha tenuta questa? L'ha tenuta questa. Addirittura a me me l'ha piegata, il tubo da un pulito ce l'ha piegato completamente. Ma lì il vento batte più di qua, nella zona tua il vento tira di più, qua si sono c'è la mancanza di radio, a volte esce, a volte no. Allora la batteria se ne sta andando. Non lo so, confermi Tom. Sì, mi stai a volte esce, a volte no. Deve essere che come te lo avvicini il microfono. No, non sei uscito, adesso è uscito basso. Quindi adesso adesso è tutto graffiante, boh. La batteria è stata forse bene lì. E ci scaricano subito con la batteria da 9. Emanuele, riprendi. Anche antenne devi piazzare, oh, fra. Mettetela un altro, fra. Che va bene con l'antenna lì. Anzi, va benissimo. Facciamo che fa una canapa e scavo quella che c'ha attore e va più che bene. Ah, c'era una canapa da 5, adesso vedo un po' ad attaccarne la pesca. Tira il ponte della strada e non sai come la piega. L'ho provata una volta, ne ha chiudato da subito. E però cosa gli fa se ce la piega? Deve piegarsi. Ah, pensa che andiamo da una parte all'altra. No, non le fa niente. Cazzo di fase, è apposta a far quello. No, io non l'ho tolta, vedo già pronta, già piazzata, l'ho provata e funziona la bomba, era. Sì, lo so, vanno bene come antenne, vai tu. Mettici un tubo in PVC, mettici. Quasi giusto. Allora, io ho una canapa da 9 metri, capito? Ho tolto lo stile, l'ultimo spezzone di su, è praticamente 8 metri. Ecco, su 8 metri metteci un 3 metri di tubo PVC e glielo stringi forte, vedrai che non si bigia tutta canta. Infatti ho fatto così, il pezzo di sotto l'ho messo in PVC, però la piega lo stesso, cioè. Vabbè, no, non fa niente. No, un 3 metri di tubo dentro, ci mette la canna da pesca dentro, 3 metri di tubo in PVC, vedrà che non si piega tutta quanta. Eglia, io l'ho fatta con 1 kg da 4, R58 213 1 kg da 4. E poi in cadenza praticamente l'ho fatta a 2.13 in modo che posso dare potenza. Di cosa era il Biena? Di calcio e zuzzo. All'aggio Biena, ma di buca volante è uscita, di una strada, e però non l'ho tolta perché si piegava troppo, l'ho buttata a terra. E ce l'ho buttata a qua. Vedi, che da dove piana Brento di coso? E poliespanso. Questo è troppo, capa dove bruciava. Mi Antonio riserva, ogni tanto si fa sentire di. Ogni tanto invece, ciao Antonio, lasci. Ma come si visò? Ma se ce l'hai l'antenna, vado a dire l'antenna. Vado la matta da 5, è gata, pronta a piazza. Io non ne ho più, anche lì, sulla... apparato, allora rimane di salire presto. Ma fatta anche io la penso di più, non la faga niente. E che antenne c'hai tu? Io sto uscendo con una frusta aerea. No, io c'ho in capella che ho piazzato una bombera. Io anche io ce l'ho la 3-5. La volevo piazzare in campagna, però c'è troppo pesante, un casino.